4 mattino. Spiegatemi una cosa, per favore. Io sono rimasto 2-3 mesi chiuso in casa, pur essendo sano, e questo invece, se hai il Covid, sa di essere positivo, se ne va in giro, non può essere costretto a stare in casa, TSO. No, spiegate, ma che io ancora non ho capito. Trattamento sanitario obbligatorio no, ma più senso di responsabilità lo si chiede, soprattutto nei momenti in cui una persona presenta dei sintomi, anche se non hai la certezza di avere il Covid, lo puoi avere, quindi ti metti in isolamento. Non c'è senso civico, non c'è assolutamente senso di responsabilità. Andate a controllare le strade gestite dall'ANAS e vedete in che condizioni sono, dalle piramidi alle Alpi. Non c'è bisogno di essere laureati in ingegneria spaziale o al MIT di Boston o al JPL di Pasadena o alla Bocconi o dove volete voi, alla scuola elementare, non c'è bisogno. Ora capisco la voglia di citare Manzoni, caro ascoltatore, però non credo che l'ANAS gestisca strade in Egitto, dalle piramidi alle Alpi, dice, a parte che era l'opposto. No, però il tema c'è comunque, nel ragionamento che cosa fare di questa concessione ad autostrade, passa ad ANAS. Ma ANAS come sta lavorando? E poi vedo che vi dividete sul tema del trattamento sanitario obbligatorio per chi è trovato positivo al Covid e non rispetti l'isolamento. Come vedete, discussione aperta, e anzi tra un attimo vi leggerò qualche passaggio dell'intervista al sindaco di Bari, De Caro, che è anche il presidente dell'ANCI, l'associazione dei comuni, perché poi sono i sindaci che sono quelli che dispongono il TSO. Quindi, ed è favorevole, è favorevole. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ecco, ci sono le 7:21 minuti di questo lunedì 6 luglio ed è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, con i giornali che vanno un po' in ordine sparso. Se il Corriere della Sera ci porta sul, fatemelo dire, sull'ennesimo piano, in questo caso è il piano nazionale di riforme, quello da presentare alla Commissione europea, perché circolava una bozza nelle scorse ore: meno tasse, più treni e buoni internet, così il piano per l'Unione europea. Ma Corriere della Sera presenta anche una doppia foto di movida, di serate allegre con decine di persone ammassate in via Lecco a Milano, Ponte Milvio a Roma, tutti senza mascherina. Il Quotidiano Nazionale apre proprio con il sì dei sindaci ai ricoveri obbligatori. La Verità resta un po' sulla stessa linea, ma non solo. TSO agli italiani, via libera ai migranti, e mette insieme la questione della Ocean Viking. La Repubblica apre anche qua sul fronte economico, sul MES, l'intervista al segretario europeo del Fondo Salva Stati: né troica né austerity, fiducia a Roma se userà i soldi. Il titolo è «Il MES non è una trappola». Il Giornale apre con quello che definisce un nuovo audio shock: il giudice di Berlusconi, gli devo fare il mazzo. E sono degli audio che saranno riportati questa sera da Quarta Repubblica, e c'è un'intervista qua al conduttore Nicola Porro che racconta di queste tre testimonianze raccolte in un hotel di Ischia, dove Esposito, il giudice che decise su Berlusconi, andò in vacanza più volte. Lo chef, il cameriere, l'addetto alla spiaggia, ai quali Esposito avrebbe detto che Berlusconi è una chiavica e se mi capita gli devo fare un mazzo così. La Stampa apre col Covid, lo tsunami che abbatte anche il PIL delle regioni. Il Fatto Quotidiano attacca il gruppo San Donato, un gruppo di sanità privata. Non solo Alfano e Maroni nelle cliniche, anche gli 007, il gruppo che lavora con il servizio sanitario. Tra gli assunti conta già due ex ministri, Angelino Alfano e Roberto Maroni, e poi c'è Augusta Iannini, ex magistrato. Il Messaggero: appalti, procedure più veloci, anche qua su un piano in arrivo è quello appunto sulle semplificazioni, e poi l'apertura del Sole 24 Ore è dedicata al sondaggio tradizionale del Sole, governance poll, è quello sui sindaci e i presidenti di regione, dove il massimo dei voti, il massimo delle preferenze va a Luca Zaia, presidente del Veneto, con un 70% tra i presidenti di regione, il minimo a Zingaretti, presidente della regione Lazio e segretario del PD, col 31%. Ci arriveremo tra poco, appunto, al Sole 24 Ore. Sole 24 Ore che tra i sindaci il primo in testa alla classifica c'è proprio Antonio De Caro, il sindaco di Bari, ed è da lui che iniziamo nel suo ruolo di presidente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, ed è la questione sulla quale si sta dibattendo dopo che ieri ne ha parlato anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. La linea dura per fermare i nuovi focolai, ossia l'idea che insomma non ci si possa basare più soltanto sull'isolamento fiduciario, non ci si possa più basare soltanto sulla quarantena volontaria e sulle sanzioni nel caso non si rispetti la quarantena, ma nel caso di mancato rispetto bisogna andarci giù, più duri. Linea dura per fermare i nuovi focolai, sì al TSO, al trattamento sanitario obbligatorio per chi rifiuta le cure. Appunto l'intervistato è proprio Antonio De Caro, sindaco di Bari, presidente dell'ANCI, Alessandro Farrugia a parlarci. I trattamenti sanitari obbligatori possono essere uno strumento molto utile, dice De Caro, in casi estremi e ben definiti per tenere sotto controllo l'epidemia, isolando i possibili diffusori del Covid-19 che violino le norme di quarantena. Insomma, è questa l'idea di De Caro: sarebbe opportuno e utile poter obbligare al trattamento chi è positivo con sintomi ma rifiuta di collaborare. Se è trattabile a casa sua va bene, altrimenti deve essere assistito in una struttura sanitaria. Ma che si curi e stia in quarantena è fondamentale per mettere sotto controllo i focolai. Sul come valuti il governo. Tra l'altro il giornalista gli chiede anche se lui l'ha mai usato il TSO per il Covid-19. Dice c'è solamente un caso che nel quale c'era un'ipotesi di utilizzarlo, ma in realtà ho parlato con una persona che non rispettava la quarantena, l'ho convinta ad accettare la sistemazione in un albergo sanitario, in quel caso è bastato parlarci. Vedremo come andrà e dove andrà a finire questa discussione, questo dibattito sul TSO. Nel frattempo vi segnalo con pagina 12 del quotidiano La Repubblica e con Michele Bocci che sarà buttato un discreto numero dei test sierologici che dovevano essere fatti, stando all'indagine, lo ricorderete, quella che doveva partire a tappeto per verificare quanto effettivamente fosse diffuso il virus, con un campione selezionato dall'Istat, con le telefonate effettuate dalla Croce Rossa. Ma qual è il punto? Il punto è che più della metà delle persone si è rifiutata di fare questo test sierologico. E quindi a metà luglio purtroppo i test scadono e saranno da buttare e ci vorrà una nuova fornitura. L'indagine per ricostruire la circolazione del virus non riesce ad arrivare in fondo e i test appunto stanno per scadere. Ci racconta Michele Bocci. Perché? Perché mancano 10 giorni e nel frattempo cosa è successo? Molti cittadini nemmeno rispondono al telefono, malgrado qualcuno abbia ricevuto 15 chiamate. Poi ci sono coloro che rifiutano di fare l'esame e sono tanti, sono quelli, lo abbiamo raccontato spesso, che temono che fatto il test sierologico e risultata la presenza di anticorpi non arrivi immediatamente dopo il tampone e quindi di trovarsi isolati a casa magari senza avere la possibilità di sapere se si è effettivamente positivi in quel momento oppure no. Di certo, fa sapere Bocci, in 10 giorni non si riuscirà ad accogliere tutte le adesioni che mancano, quindi andranno perduti i test e bisognerà chiedere una nuova fornitura all'azienda se si vuole andare avanti. Rapide segnalazioni anche dal fronte Covid dall'estero sul Corriere della Sera, soprattutto vi segnalerei quello che ci racconta Davide Frattini dal Medio Oriente, in particolare da Israele, dove Benjamin Netanyahu sta per far partire un nuovo stato di emergenza. Perché? Gli scienziati avvertono che Israele ha a disposizione pochi giorni per riuscire a contenere la diffusione del Covid-19, gli ospedali rischiano di collassare per il numero troppo alto di pazienti gravi. Ve lo ricordate? Israele era quel paese del quale avevamo detto l'ha gestita benissimo. Solamente l'uscita dal lockdown, evidentemente qualche carenza di attenzione, sta portando al rischio di un nuovo lockdown. La scuola, tema che spesso abbiamo affrontato con la sospensione, no? questa partenza sospesa, questo 14 settembre nel quale riapriranno, ma in quali condizioni, come faranno, come si farà a tenere il distanziamento tra gli studenti, il distanziamento fisico tra gli studenti. E qua c'è la questione di utilizzare nuovi edifici, diversi edifici. La verità ci porta su un fatto che in realtà è abbastanza noto al Ministero, probabilmente, anzi hanno un censimento, dato che qualche dettaglio l'hanno dato. Ci sono un sacco di scuole in Italia che sono state iniziate e mai terminate. Ebbene, si potrebbe rimettere mano a questi edifici, ormai certo il tempo stringe, ma le storie che vengono raccontate in questo pezzo di Antonio Di Francesco sono delle tipiche storie italiane, se volete, e che danno un po' la misura di come si fanno le cose in questo paese. Ad esempio c'è a Roma, alla Magliana, l'ex scuola 8 marzo. Da tempo i cittadini ne segnalano il degrado, l'incuria, le attività sospette che si svolgono all'interno. Le prime mozioni dei consiglieri dell'undicesimo municipio risalgono al 2012. Eppure, nonostante la scuola figurasse tra i primi 10 interventi di sgombero già nel 2015, nulla è stato fatto. Dunque una scuola che doveva essere una scuola e che invece è occupata da 400 persone, tra cui diversi bambini. Oppure Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, dove doveva sorgere quella che è stata definita la scuola più grande d'Europa. Peccato che in questo slancio di entusiasmo verso il futuro a Somma Vesuviana si siano dimenticati di prendere bene le misure, perché a distanza di anni dall'approvazione del progetto, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 3 Sud nell'agosto 2018 ha fatto sapere che la pratica è improcedibile perché l'altezza delle aule è impropria, 2,7 metri invece di 3, e quindi la scuola non si può utilizzare. E ancora, per esempio, tra Bari e Trani, Barletta Andria Trani, cosa succede? C'è una scuola che anche qua di fatto è costruita, cioè non è lo scheletro, è proprio praticamente una scuola fatta. Che cosa succede? Succede che nel 2011, con il trasferimento del patrimonio dalla provincia di Bari alla provincia di Barletta Andria Trani, per errore viene acquisito il terreno su cui sarebbe sorta la scuola di via Morelli, che invece era stato ceduto qualche mese prima ad una banca e a una ditta perché iniziassero a costruire. Il balletto ai provvedimenti legislativi prosegue fino ad oggi, e quindi a 9 anni di distanza non si sa ancora effettivamente chi, come deve fare i lavori, di chi è la proprietà di quel terreno. Una vicenda incredibile. Pausa. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Più di un ascoltatore ci chiede se si può essere volontari per i test sierologici della Croce Rossa. No, perché è un test pensato per verificare la diffusione nella popolazione italiana del virus, e quindi il campione lo stabilisce l'Istat sulla base di età, sesso, eccetera, occupazione, eccetera, eccetera. Quindi no, non si può essere volontari, purtroppo, però apprezziamo il vostro senso civico, senza dubbio. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci. Eccomi qua. Eccoci qua. Allora, io salterei un po' a pie pari, caro Paolo, tutti i piani, il piano nazionale di riforme per l'Europa, le procedure più veloci, perché poi quando li avremo in mano, effettivamente non avremo aspetta, li abbiamo in mano, ma sono pieni di genericità. Oggi tutti i giornali li annunciano perché è obbligatorio. Però non se ne può più di questi piani onnicomprensivi. Oggi sia Repubblica, sia il Corriere della Sera, sia la stampa, i principali giornali pubblicano articoli di Tito Boeri e Roberto Perotti su Repubblica, dice: i decreti di semplificazione sono lastricate le sale di Palazzo Chigi, ce ne sono di ogni ordine e grado. Sabino Cassese ruba una citazione da Orazio: parturient montes, nascetur ridiculus muse. Le montagne hanno le doglie e nascerà un piccolo topo ridicolo. E Cottarelli, uomo che nelle intenzioni del capo dello Stato avrebbe potuto essere al posto di Conte, dice che è debole la riforma della burocrazia. Non vorrei essere troppo critico, ma ci sono tante idee buone e condivisibili, però ce ne sono troppe e non abbastanza messe in gerarchia. Insomma, chiacchiere, grandi programmi e niente di concreto. Quindi andiamo su altre cose. Dai, andiamo su altre cose. Allora, fammi iniziare in modo un po' diverso a questo punto e fammi mettere insieme due figure che curiosamente i giornali non mettono insieme, cosa che io avrei fatto, perché ieri sono scomparse due persone che sono state molto importanti per le battaglie civili che hanno portato avanti: Mauro Mellini e Carlo Flamigni. Mauro Mellini, radicale, la battaglia per il divorzio. Carlo Flamigni, insomma, lo sappiamo, della fecondazione assistita. Sai che anch'io mi sono rimasto colpito dal fatto che non siano state appaiate, nel senso che erano due quasi coetanei, uno aveva 87 anni, Flamigni, e Mellini ne aveva 93, però sono parenti, imparentati dalla stagione di battaglie per i diritti civili. Gli articoli sono anche intelligenti, divertenti, per esempio Repubblica, che li mette, però hai ragione tu, una pagina 8 Mellini, una pagina 22 Flamigni, cioè non gli è venuto in mente a nessuno di metterli appaiati. Dedica soprattutto a Mellini un articolo spiritoso dove racconta Filippo Ceccarelli che quando facevano l'autofinanziamento i radicali, ci sono tutte le foto di lui imbavagliato con Pannella. Lui si presentava vestito in modo strano e faceva degli spaghetti all'aglio che erano delle bombe all'aglio, una pasta, dice, che era ricordata perché poi non si poteva più fare una discussione, nel senso che queste bombe all'aglio stramazzavano tutti quanti. Impediva di fare tutto. Però due personaggi, tra l'altro, molto umani, molto simpatici, anticonvenzionali. Mellini aveva anche litigato bestialmente con Pannella, per carità. E poi vabbè, invece Flamigni, ben ricordato, mi pare a pagina 17 del Quotidiano Nazionale, solo questa nota per darvi la misura del personaggio che era, del medico che era, oltre che del personaggio che era. Racconta la moglie, senza neppure pensarci un attimo, in pieno lockdown ha pubblicato sul suo sito il suo cellulare privato, che aveva bisogno di lui, doveva trovarlo. E parliamo di un luminare, di una persona, insomma. Era anche uno scrittore. Arcinota, ricordiamo anche che fu lui che nel 1997 guidò l'equipe che fece nascere Elena, la prima neonata venuta al mondo da una boccita congelata. Insomma, grande personaggio, ripeto, scrittore, politico, maestro di tanti colleghi, belle figure. Forse era meglio aprire i giornali su questi che sull'ennesimo sui piani. Allora, non ce ne può più. Il Sole 24 del lunedì presenta il suo tradizionale sondaggio governance poll di Noto. Mamma mia, quante sorprese, hai visto? Notevole. Allora, ed è un sondaggio, lo dico agli ascoltatori, si fossero messi in ascolto solamente adesso, che prende in esame presidenti di regione e sindaci e il loro gradimento, naturalmente, e ci sono parecchi spunti interessanti. Lo fa ogni anno, ma questo, da che io mi ricordi, è il più sorprendente. Allora, fra i presidenti di regione, il primo, e questo si poteva prevedere, è Luca Zaia, che è stato eletto nel 2018. Mi stupisce che i primi quattro venuti, i primi quattro su 18, sono tutti quattro del centrodestra, sono Zaia, Fedriga, Donatella Tesei appena eletta in Umbria e la Iole Santelli appena eletta in Calabria. Qua conta, forse, qua conta forse anche, Paolo, il fatto che sono state appena votate sostanzialmente Tesei e Santelli, però insomma evidentemente hanno retto bene. Infatti, se vuoi, per darti ragione, il primo degli eletti di centrosinistra, adesso le regioni in mano a centrosinistra però sono anche poche, quindi conta anche questo fatto, è Stefano Bonaccini. Ma la vera sorpresa che avrà fatto balzare sono due. Uno, che De Luca, che noi stessi abbiamo visto in altri sondaggi, era dato come un uomo in grande ascesa, è solo undicesimo, cioè fra gli ultimi. E che l'ultimo non è Attilio Fontana, quelli più criticati, ma gli ultimi due sono Michele Emiliano, cioè un governatore che ha ben fatto, è sedicesimo, e al diciottesimo posto Nicola Zingaretti. L'ultimo, insomma, ultimo. Questa sarà una cosa che un po' li farà riflettere, nel senso che il loro segretario come governatore di regione è arrivato ultimo. Sì. E il loro, candidato in Puglia ha perso 7 punti percentuali dall'ultima rilevazione, quindi sono notevoli. Sono due cazzotti nello stomaco al centro-sinistra notevoli. Sì. Però il centro-sinistra si rifà con i sindaci, nel senso che fra i primi tre ce n'è uno che è indipendente, che il sindaco di Messina, che ormai conosciamo tutti perché è Cateno De Luca, perché ha avuto un ruolo nel bloccare lo stretto, ti ricordi? Sì, come al momento in cui volevano tornare, ed è secondo. Il primo è Antonio De Caro, che è un famosissimo sindaco di Bari, e il terzo, questo mi ha molto sorpreso, positivo per lui, è Giorgio Gori, il sindaco di Bergamo, perché Gori fece la campagna di Bergamo non si ferma all'inizio del Covid, però poi prese in mano la situazione e con molto coraggio fece delle ammissioni e non si buttò giù. Invece, per esempio, Giuseppe Sala, che è il sindaco di Milano, che è una situazione analoga alla sua, è sprofondato giù al 52. Tiene abbastanza rispetto all'anno precedente, comunque fa un più 1,7%. Impressionanti Leo Luca Orlando, ultimo. Orlando, e le due famose sindache dei 5 Stelle, Chiara Appendino è 97esima e Virginia Raggi è penultima al 104esimo posto. E De Magistris al centesimo posto. Sì, devo dire che è strano, Leo Luca Orlando non credevo che fosse così in basso. Tu mi dirai, ma è un vecchio personaggio della politica? No, perché per esempio Clemente Mastella, che è sindaco di Benevento, sedicesimo Clemente Mastella, molto in alto, fra i vincitori c'è Clemente Mastella, fra i perdenti, anzi il perdente assoluto lo... Vabbè, ma la gioca la promozione del Benevento secondo me è stato l'elemento fondante per il rilancio di Mastella, ma secondo me può darsi, potrebbe avere avuto un effetto. Il traffico. Salta sulla tua nuova Alfa Romeo e vai! Ma se la metti in pausa, parte il risparmio! Per te nasce l'Easy Smiles, il nuovo noleggio che ti permette di pagare solo i chilometri che percorri e i primi 1.000 sono inclusi nel canone. Ad esempio, noleggia Alfa Romeo Stelvio da 399 euro al mese, anticipo zero e servizi inclusi. Fino al 31 luglio, info su alfaromeo.it. Mattino. Allora, da cosa riprendiamo? Riprendiamo, se vuoi, Paolo, da questioni politiche che hanno a che fare con l'immigrazione. Ripartirei da qua perché è un tema che è un po' sotto traccia ormai da qualche giorno, con questa storia della Ocean Viking che è stata ferma in mare per 11 giorni, finalmente si è dato il via libera allo sbarco, e però è ancora una volta un elemento di tensione all'interno della coalizione di governo, no? Beh, qua adesso fammi fare i complimenti ad Avvenire, suo giornalista ormai famosissimo nello scavo, è l'unico giornale che tiene in questi giorni, tiene punto, osserva questa, cioè si comporta come si comportava l'anno scorso quando c'era al governo il centrodestra, cioè non ha cambiato modo di guardare, mentre invece da quando c'è il governo sinistra e 5 Stelle i giornali hanno un po', diciamo, giornali e soprattutto gli intellettuali, gli scrittori, io mi ricordo l'anno scorso si buttavano in mare, raggiungevano a nuoto le navi, non vivevano se questi migranti rimanevano sul ponte due giorni in più, tre giorni in più. E non dimentichiamo che Salvini è stato trascinato a processo per non averli liberati subito, fatti scendere subito. Adesso invece stanno 10-11 giorni al caldo lì in una situazione, tra l'altro questo è anche l'anno del Covid, quindi in condizioni precarie, con pericoli di contagio, e tutti se ne... Sì. Non so come dire, aspetta, sì, non mi viene il verbo. Sì, no, no, no, non lo dice, non diciamo, non lo diciamo. La cosa, mettiamola così, guarda, la cosa passa un po' sotto silenzio, tutti se ne disinteressano. Tutti però è un paese, in compenso, c'è cioè un grande sondaggio su Repubblica, pagina 6, è un paese che a dichiararsi nei sondaggi è antirazzista al 100%, soprattutto fra i giornalisti, la minaccia, c'è un pericolo, cioè cresce il sentimento fortissimo, però poi nei comportamenti c'è disinteresse o comunque c'è doppio standard. Se al governo ci stanno quelli del centrodestra la cosa ti appassiona, se ci stanno quelli di centrosinistra no. Devo dire, devo dare atto al segretario del PD Nicola Zingaretti, che un po' se n'è accorto, ieri ha fatto, siccome i 180 delle Ocean Viking sono stati finalmente spostati su una nave dove verranno testati, poi oggi, presumo oggi, scenderanno a Porto Empedocle, con qualche ritardo, insomma, lo fa notare in modo delicato, mentre invece chi ci va giù pesante è l'ex presidente del PD, Matteo Orfini, che ha fatto un altro tweet in cui dice: guarda, siamo uguali se non peggiori dei nostri predecessori, ed ecco i motivi per cui non decolliamo nei voti. Perché ieri Andrea Orlando, il vice segretario del PD, ha detto: beh, ma noi a voti nei sondaggi in fondo stiamo bene, perché se non calcoliamo le tre scissioni e mettiamo che abbiamo subito, che sarebbero Calenda, Renzi, non so bene chi è il terzo, in fondo i nostri voti sono buoni. Non ti dico, c'è stata una pioggia di commenti. E allora, se non ci fossimo scissi a Livorno nel 21, il Partito Socialista sarebbe un gigante, insomma, lo hanno preso in giro. Ecco, Matteo Orfini ha puntato a dire, dicendo: guardate che nei comportamenti specifici c'è una cosa che apparentemente, sottolinea apparentemente, un anno fa turbava la sensibilità di tutti. E qua noi non stiamo facendo niente, sì. I decreti, dobbiamo cambiare i decreti, fu detto subito i decreti, sì. Anzi era uno degli elementi costitutivi, no, di questa maggioranza. Tu infierisci ogni ti faccio, mi limito a fare da spalla, insomma, quindi figuriamoci. Comunque è vero, annunciarono che loro entravano in PD con cedendo su molti punti, ma quei decreti dovevano cambiare. Eravamo alla fine di agosto del 2019, siamo all'inizio di luglio del 2020 e siamo ancora in alto mare, può darsi che ricambino. Però insomma c'è qualcosa sulla cosa, siccome i migranti terranno banco, per fortuna, e sottolineo per fortuna, non nei modi dell'estate scorsa, però la questione si vedrà. Oggi c'è una foto, per esempio, che pubblicano tutti i giornali, di un 17enne etiope sorretto da un marinaio siriano privo di forze, è un ragazzo che ha il piede gonfio per le torture, magrissimo, non si capisce come faccia a stare in piedi. Ma non basta pubblicare queste foto e così cercare di come non bastò la foto del bambino sulla spiaggia. C'è un'altra foto, Paolo, che domina le prime pagine dei quotidiani oggi, ed è quella della Formula 1 di ieri, dei piloti inginocchiati. tranne uno, anzi due in realtà, sono Leclerc, ah, Verstappen, sono sei in tutto, però diciamo, quello che fa più rumore è chiaramente Leclerc, il ferrarista Leclerc, no? Che poi però insomma ha fatto una bellissima corsa e è arrivato secondo. E invece cioè, la cosa era per una solidarietà a Hamilton, che aveva ideato questo modo di inginocchiarsi per la solidarietà agli americani. Bene, Leclerc va detto che poi ha vinto, è arrivato secondo, sì, non se lo aspettava, e mentre Hamilton è arrivato male, quarto mi sembra. Dicevo, la cosa è strana perché Leclerc ieri ha mandato un messaggio e poi ha detto: guarda ragazzi, io solidarizzo come quanto vuoi, ma non mi va di inginocchiarmi, mi sembra una buffonata, basta, non è... Sì, cioè non proprio, non l'ha detta proprio così, però più o meno... Insomma. Beh, sto traducendo. Sì. Anche l'italiano Giovinazzi l'ha imitato, e insomma c'è un precedente che prendo dal giorno Nazione Resto Carlino, una giocatrice del... North Carolina, il portiere Sam Lesans, che è una ragazza, sì, che è stata in piedi durante l'esecuzione dell'inno pur indossando una maglietta antirazzista, sì. Ecco perché anche Leclerc indossava una maglietta antirazzista, fanno una cosa, però sì, l'omaggio ai tempi non lo vogliono dare, sì. È una cosa su cui riflettere, cioè si può essere anche antirazzisti senza sentirsi in obbligo di dare un omaggio ai tempi. Non lo so, mi ha fatto riflettere. Credo che io e te ci saremmo inginocchiati, io con maggior fatica, te con più agilità, però in fondo la cosa di Leclerc... un significato ce l'ha. Sì, sì. Allora, Paolo, avrei voluto parlare con te anche della statua di Colombo abbattuta come quella di Saddam, ma non abbiamo veramente tempo, ma tanto insomma conto che ci torneremo. Grazie Paolo Mieli, ci risentiamo mercoledì. GR24, a tra poco, Maria Latelle.